e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E ben ritrovati a tutti a Cuore Denari, ultima puntata della settimana. Nicoletta mia, Che Nicoletti hai? Ne abbiamo uno, Gianluca, che ci aspetta. Ci basta e ci avanza, direi. Bello. Ciao Gianluca, ti passeremo la linea più tardi. Che progetti hai per il weekend? Dove... Allora, vorrei andare a Torino, che è la mia città. Certo. Se ce la faccio. Bene, ottimo. Perché tra l'altro ci dovrebbe anche essere Artissima. Ah, invece qua a Milano c'è Golosaria. Uguale. Vedi? Invece io stamattina ti porto al sud, non per il fine settimana, per l'approfondimento di Denari. Non si tratterà esattamente di una vacanza. Andiamo ad approfondire il caso della Banca Popolare di Bari, che sta preoccupando molti risparmiatori che non riescono a rivendere le proprie azioni. Cercheremo, come sempre, di vederci più chiaro. Nicoletta, con te invece? E allora, invece noi giocare a tennis, tu sei capace? No. No, anch'io zero, sono sgarsa. Zero. Allora andremo a meditare. Nella seconda parte della trasmissione parleremo infatti di meditazione. Lo facciamo prendendo spunto dalla vicenda del tennista Novak Djokovic, che è tornato a far parlare di sé dopo che è stato diffuso un video dove lui si mette a nudo e non mostra il campione, ma l'uomo che si è in cerca un po', magari. Allora, il video ha fatto fare insomma molte visualizzazioni. Di meditazione quindi vogliamo parlare, non la usano naturalmente solo gli sportivi, ma parleremo in particolare di un tipo di meditazione su cui la ricerca ha puntato gli occhi e ci sono anche dei dati molto interessanti. È la mindfulness, si traduce letteralmente un termine inglese che sta per consapevolezza, ma quando parliamo di meditazione in realtà parliamo di tante tecniche diverse. Ne scopriremo delle belle insieme ai nostri esperti. Intanto andiamo. Parto io con le notizie di borsa. Qua non c'è nulla di buono da raccontare. Anche oggi nervosismo che rimane alle stelle in attesa del grande appuntamento elettorale di martedì prossimo, quello con le presidenziali americane. Meno 0,9% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Sono negative anche le piazze europee, le altre piazze, con Londra particolarmente forte in termini di ribasso, meno 1,34. Qua abbiamo avuto ieri l'inattesa decisione dell'Alta Corte di Londra, che ha detto: sulla Brexit non decide il governo ma il Parlamento, che deve votare sul processo di uscita appunto dall'Unione Europea, circostanza che ieri ha fatto risalire la sterlina sulle altre divise europee e penalizzato il mercato azionario. A Piazza Affari oggi pochi titoli positivi. Tenaris ha rassegnato la trimestrale stamattina, guadagna quasi 3 punti. Bene STM più 0,9, Snam più 0,5, Terna più 0,24. Per il resto vendite fortissime dappertutto, in particolar modo to qua una storia nuova, Monte dei Paschi, che riscende di quasi 8 punti percentuali e riporta con sé tutti gli altri titoli bancari. Noi di storie bancarie parliamo tra poco, ma vi voglio raccontare, prima di partire con il nostro approfondimento, che c'è l'appuntamento del 18 novembre. Mi raccomando! Te l'ho detto, che se fate i bravi porto Nicoletta. Così, dai, allora, dai. Così la potete salutare in diretta. D'accordo. Il 18 novembre. Abbracciare, baciare. Io esatto. Vengo solo per quello. Poi se vi interessa io faccio anche magari il convegno con i nostri relatori di Investire Informati. Il 18 novembre c'è l'appuntamento Investire Informati live. La gran parte degli ospiti che si sono avvicendati nei nostri giovedì di Scuola del Risparmio saranno lì appunto a vostra disposizione. Parleremo di mercati finanziari, di come si investe ora, delle norme che cambiano, come ci anche dobbiamo preparare. Anche perché ormai noi siamo abbastanza preparati. Quindi faremo delle domande fantastiche, veramente da Pulitzer. E vi aspettiamo. Benissimo. Andiamo al nostro primo approfondimento. Ah no, aspetta, devo ricordare che se volete intervenire voi del pubblico indistinto dovete andare sul sito di Radio 24, compilare un format e ve lo mettiamo anche su Facebook, e quindi è tutto facile. Basta mettere nome, cognome e pochi altri dati e avete l'accesso naturalmente all'evento. Auditorium del Sole 24 Ore il 18 novembre alle 18. Partiamo. Mia cognata, 78 anni, è in possesso di 100 azioni della Banca Popolare di Bari che le sono state vendute, immaginate voi in che modo, 7 anni fa. Ora ha bisogno di venderle per pagarsi la badante. Ha fatto presente la necessità e l'urgenza, ma non riesce. Ha fatto richiesta di vendita a maggio 2016. Le viene risposto che non si sa quando potrà avere i soldi, quando cioè riuscirà a venderle. Cosa ci consigliate? C'è la possibilità che se nessuno compra queste azioni, lei non riavrà mai i soldi? Allora, qui occorrerebbe fare una puntata intanto sullo specifico tema investire in azioni come forma di risparmio per pagarsi la badante in futuro, ma qua è tutto un altro ragionamento che Però il tema è molto bello, molto interessante, bello, molto anche assolutamente. Però qua abbiamo una persona anziana che ha comprato delle azioni di una banca non quotata con l'obiettivo di farsi una piccola cassaforte per pagarsi la badante, o quantomeno adesso ne ha bisogno per quello fine. Il tema è che c'è una nuova storia di risparmio tradito, come tante di quelle che abbiamo raccontato in questi anni. Tra l'altro stiamo andando verso il primo anniversario del provvedimento del governo sulle quattro banche risolte, lo celebreremo insieme se volete. Oggi parliamo invece della situazione in cui si trovano migliaia di famiglie che in passato hanno sottoscritto azioni non quotate della Banca Popolare di Bari e, come la signora che ci ha scritto, adesso non le possono più vendere. La banca avrebbe venduto le sue azioni promettendo che in qualsiasi momento gli investitori avrebbero potuto riavere indietro i loro soldi, invece in oltre 15 mesi non riescono proprio a rientrare in possesso dei propri risparmi. Una storia molto simile a quelle che abbiamo commentato tante volte in passato: Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca. Ma questa mattina torniamo su queste storie con due avvocati, quindi siamo in una botta di ferro, speriamo. L'avvocato Letizia Vescovini di Modena, buongiorno avvocato, grazie. Buongiorno a tutti voi. Io segnalo peraltro che ho messo sul mio piccolo blog, sulle nostre pagine appunto di Cuore Denari, dal sito di Radio 24, proprio questa storia di questa signora, e l'avvocato Vescovini mi ha aiutato un po' a commentarla per capire quali sono le strade che adesso questa donna insieme a tanti altri appunto potrebbero intraprendere per ritornare in possesso del loro risparmio. Sentiremo poi l'avvocato Antonio Pinto del direttivo nazionale di Confconsumatori di Bari, che abbiamo sentito già due giorni fa, ci ha presentato il decalogo della Confconsumatori per la tutela del risparmiatore, e l'avvocato Pinto, suo malgrado, proprio per la zona in cui abita, si sta trovando a gestire molte situazioni appunto di malcapitati protagonisti nelle storie dell'investimento appunto nelle azioni della Popolare di Bari. Avvocato Pinto, buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Allora, naturalmente c'è l'invito anche ai nostri ascoltatori a chiamarci in diretta all'800 24 00 24. Se siete coinvolti in questa vicenda, se anche voi come la cognata di questa nostra ascoltatrice avete comprato azioni o di questa banca o di altre banche e quindi siete adesso in possesso di quelli che vengono definiti nel gergo finanziario titoli illiquidi, non hanno un compratore sul mercato, per cui la banca si sente nel pieno diritto di dire non te le posso rivendere perché io non ho un compratore dall'altra parte. Quindi non solo Banca Popolare di Bari, peraltro preannunciando che avremmo fatto questa trasmissione, lo ha fatto per noi Sebastiano Barisoni a Focus Economia ieri e l'altro ieri, un ascoltatore ha sentito e ci ha scritto dicendoci di trovarsi in una situazione analoga con azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Avvocato Pinto, tutte storie che voi conoscete molto bene, volevo partire con lei perché vorrei che ci raccontasse che clima c'è adesso appunto nelle Barese, in Puglia, intorno a questa storia, e che cosa le raccontano probabilmente le migliaia di risparmiatori che si stanno rivolgendo anche ai vostri sportelli per denunciare queste condizioni, queste situazioni. Sì, il clima è ovviamente abbastanza complicato perché ricordo in 30 secondi che la Banca Popolare di Bari è una di quelle banche che ha l'obbligo entro il 31 dicembre 2016 di trasformarsi in SPA. Il problema sorge perché con l'approvazione dell'ultimo bilancio avvenuto il 24 aprile del 2016 la banca ha accusato una perdita, ha formalizzato una perdita di quasi 296 milioni, che ha portato quindi ad una svalutazione già del valore nominale dell'azione da 9,50 a 7,50, con una perdita già circa del 21%. E diciamo che fino adesso è andata anche bene, perché se ritorniamo alle storie dei risparmiatori che hanno investito in azioni di Pop Vicenza, certo, esatto, e Veneto Banca, in realtà questi si sono trovati azzerati il loro capitale, o quasi. Avvocato Pinto. Infatti. Il problema anche è dovuto alla circostanza che nello stesso bilancio la stessa banca ammette che comunque il valore nominale delle proprie azioni in realtà è di 5 euro, quindi fermo quindi poi il sovrapprezzo di 2,50 euro, che ha portato il CDA poi a fissare il prezzo finale a 7,50. Questo ha generato un'immediata ondata di vendite, di richieste di vendita delle azioni. Ricordiamo che ci sono circa 69.000 azionisti coinvolti in questa vicenda. E chiaramente a fronte di questa ondata di domande di vendita non c'è stata la possibilità, non ci sono stati compratori. Questo anche quantomeno è la giustificazione che porta anche la stessa banca. Noi abbiamo intervistato, l'ha fatto ieri Sebastiano Barisoni, il direttore generale appunto Giacobini, perché ricordiamo che questa è la più grande banca del Sud, ha 70.000 soci e, come ricordavano molti giornali negli ultimi giorni, una dinastia al comando, Marco Jacobini che è il presidente, i suoi due figli Gianluca e Luigi. Noi abbiamo intervistato proprio ieri Gianluca Giacobini, che ci raccontava, poi magari ne sentiremo uno stralcio, esattamente questo aspetto: c'è talmente un'ondata di richieste di disinvestimento che noi non riusciamo a far fronte naturalmente a tutte queste richieste, per cui c'è anche questo aspetto. E poi c'è l'altro aspetto del fatto che il capitale è svalutato per tutte le circostanze che avvocato Pinto ci ha richiamato. Avvocato, richiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi le faccio terminare il suo ragionamento, un attimino solo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e Denari. Avvocato Pinto, le faccio terminare il suo ragionamento, poi vado da Letizia Biscovini. Concludo la descrizione dei fatti rilevanti dicendo due cose, una negativa e una positiva. Di negativo abbiamo potuto verificare in tutti questi mesi in cui gli azionisti si sono rivolti a noi, a me anche, che molte operazioni, purtroppo molte vendite sono avvenute rispetto a persone che avevano dei profili di rischio assolutamente inadeguati rispetto alla pericolosità dell'azione non quotata. E la seconda cosa è che altre vendite sono avvenute invece in concomitanza, diciamo, all'erogazione di un fido per le per aziende, esatto, di mutui. E questo, come noto, sia in base alla circolare di Banca d'Italia dell'ottobre 2015, è un'operazione illecita. Addirittura anche l'antitrust a settembre ha chiarito che è una pratica commerciale abusiva. Casi identici, tutti quelli che stiamo raccontando da mesi, avvocato esatto, Pinto. Un dato positivo, però un fatto positivo che va anche evidenziato, è che proprio a fine, non so se è proprio una novità, nel senso che proprio il 31 ottobre c'è stata un'asta di vendita dove per la prima volta dopo sei mesi di totale di sostanziale blocco si sono vendute azioni per un controvalore di 5 milioni di euro con 427 contratti conclusi, come si evince dal sito della banca. È chiaro che è verosimile che si tratterà probabilmente di un investitore istituzionale che si sta posizionando per il discorso della trasformazione in SPA. Sì. Però è un fatto che va segnalato unitamente al fatto che sempre a fine ottobre la banca è riuscita a liberarsi di un pacchetto consistente di crediti deteriorati di 480 milioni. Anche perché ricordiamo, avvocato Pinto, che questa banca si è dovuta comprare in tutte già le sue vicende problematiche la Cassa di Risparmio di Teramo, portandosi con sé praticamente tutti i problemi di quella banca, per cui ecco, questo effettivamente va riconosciuto. Su quest'ultima asta, avvocato Pinto, allora io la ringrazio per averla ricordata, perché è proprio uno dei temi sui quali si sofferma il preannunciato Gianluca Jacobini, direttore generale della Banca Popolare di Bari, intervistato ieri da Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Chiedo ancora un minuto di pazienza all'avvocato Vescovini, che peraltro ha un impegno, già questa mattina aveva difficoltà a stare con noi, ma forse vale la pena aggiungere anche questo elemento, poi vado direttamente da lei. Sentiamo questo brano di questa intervista. Bisogna scindere il tema industriale, quindi la solidità della banca, con la liquidabilità del titolo, che in questo momento ha due riflessi. Per le banche quotate una forte discesa dei prezzi, e questo è successo anche su banche molto titolate, e personalmente ritengo ci siano state le riduzioni di prezzo ingiusto, mentre per quanto riguarda tutto il mercato delle ex popolari o delle popolari non oggetto di trasformazione in SPA, in questo momento c'è una domanda di vendita che è maggiore rispetto alla richiesta di acquisto. Riteniamo che questa sia una fase e che in questo momento ci sia una differenza importante tra le banche che hanno un progetto industriale e dei numeri solidi dal punto di vista industriale e patrimoniale, e quelle che invece in questo momento stanno manifestando difficoltà legate ad altro. Ogni quanti azionisti vogliono vendere riescono a essere soddisfatti? Ma in realtà questi dati è difficile fornirli. E quello che possiamo dire è che c'è stata un'ultima asta recentemente dove sono stati transati alcuni pezzi. Il nostro auspicio, con tutte le attività industriali che la banca ha portato a termine, non ultimi gli NPL, l'acquisizione di Tercas, l'integrazione della banca e con conto economico in questo momento in linea con il piano industriale, che la soddisfazione dei nostri soci continua ad aumentare pro futuro. Oggi quello che sta succedendo su un quadro complessivo che guarda tutte le banche quotate e non quotate è particolarmente complicato. Siamo vicini al panic selling. Quello che possiamo dire è che la nostra banca è vicina ai propri soci. L'unica concreta risposta che la banca può dare è attraverso i risultati industriali di gestione, e già ci sono i primi segnali positivi dalla semestrale di quest'anno. Avvocato Vescovini, eccoci a noi. Allora, a prescindere dal caso della Popolare di Bari, qua possiamo metterli insieme tutti, il tema è il titolo illiquido, essere in possesso di un investimento dal quale non si può uscire perché non c'è il compratore contestuale. Banalizzo ai minimi termini proprio la situazione per farla capire a tutti. Voi come suggerite alle persone, come per esempio la signora che ci ha scritto, di muoversi, di agire? Ma innanzitutto rimanere in attesa che la banca si renda disponibile a liquidare l'azione vorrebbe dire non riconoscere i bisogni che queste persone hanno di avere liquidità immediata. Quindi solitamente consiglio di procedere facendo una richiesta formale alla banca di risoluzione del contratto con cui è stato investito il denaro del risparmiatore in azioni illiquide, perché normalmente queste azioni illiquide non erano in linea con le esigenze, le aspettative di questi risparmiatori. Il profilo di rischio, diciamo, ecco. Il profilo di rischio, sì, diciamo che il profilo di rischio che dovrebbe essere sempre il parametro in forza del quale la banca vende i propri prodotti al cliente, spesso viene utilizzato e modellato in senso contrario in base alle esigenze che la banca ha per poter vendere quel titolo alla persona che ha il bancario davanti in quel momento. Accade spesso che il profilo di rischio venga modellato, modificato esattamente nello stesso momento in cui vengono offerti questi prodotti liquidi, esatto, proprio per evitare che il sistema blocchi l'operatività bancaria. E quindi spesso si può riuscire ad aiutare queste persone facendo valere la operatività pregressa. Se si tratta di persone anziane, di persone che comunque hanno sempre investito in titoli di Stato, comunque prodotti prudenti, o magari non hanno mai investito in precedenza e avevano queste somme a disposizione sul conto corrente, è abbastanza facile dimostrare che il profilo di rischio cambiato in occasione della vendita del titolo illiquido non fosse reale, quindi non possa avere nessun tipo di valore. Quindi la cosa che consiglio sempre di fare è richiedere la documentazione alla banca per verificare effettivamente se da investitori prudenti siamo diventati improvvisamente degli investitori quasi speculativi. Avvocato Vescovini, so però che lei appunto ritiene opportuno in molti casi agire per la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi informativi, ma come si fa, come si può arrivare a dimostrare questo appunto? Ma allora, diciamo che per quanto riguarda i titoli liquidi, la Consob ha emesso una comunicazione già nel 2009, la 90-19-104, che faceva sì che venisse specificato meglio il dovere di diligenza che l'intermediario ha nella collocazione di titoli illiquidi. In particolare veniva richiesto che venisse specificato esattamente quale fosse il valore corretto di questo titolo, quali fossero i costi impliciti di questo prodotto e che fosse esplicata la modalità con cui veniva determinato il prezzo del prodotto. Abbiamo perché, 30 secondi, avvocato. Ecco, per tornare a monte, i titoli liquidi normalmente non hanno un prezzo che si forma sul mercato, ma è la stessa banca che attribuisce un prezzo a questo, ecco, e quindi bisognerebbe rendere edotto il cliente che il prezzo è stato fatto in casa e quindi non necessariamente è oggettivo. Certo. Proprio per questa ragione il cliente deve sapere che ad un certo punto è possibile che quel titolo non possa essere più venduto e che quindi il suo investimento rimanga cristallizzato. Certamente. Avvocato, io la ringrazio, torniamo subito dopo Giornale Radio con l'avvocato Pinto e cercheremo di approfondire ancora. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it e potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog dopo un lungo silenzio. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Cuore e denari. Ridammeli! Ridammi i miei due pezzi! Michael, comportati bene! Per favore, glieli dica! Sì, ridammi il mio denaro! No. Che sta succedendo? La banca non vuole restituire il denaro. Ma io rivoglio il mio. Si muova, giovanotto, tutto il denaro del mio conto. E mi dia anche il mio. E il mio! E insomma, abbiamo qua anche noi la nostra Mary Poppins, Letizia Vescovini, avvocato di Modena. Buongiorno. Si sente un po' in questa calata, in questa immagine cinematografica. Vabbè, insomma, che abbiamo utilizzato questa mattina come spesse volte, come tante volte abbiamo fatto per introdurre il tema del nostro approfondimento. Questa mattina tocca alle vicende della Banca Popolare di Bari e tocca alle vicende di migliaia di famiglie e di risparmiatori che in passato hanno sottoscritto azioni di questa banca e che negli ultimi mesi, da almeno 15 mesi, quindi da quasi un anno e mezzo, vorrebbero disinvestire, preoccupate probabilmente anche per tutte le situazioni che poi si sono verificate contestualmente in altre zone d'Italia. Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, novembre di un anno fa, le quattro banche risolte, anche se lì avevamo in ballo non solo azioni di quelle banche, ma le obbligazioni subordinate. In tutto questo, ovviamente, preoccupazione che il direttore generale della banca Giacobini ha definito situazione, è vero, effettivamente, di panic selling. Tutti adesso vogliono disinvestire e la banca dice: non posso accontentarvi tutti quanti. Questo è un po' il nocciolo della situazione. Il tema è, avvocato Vescovini, come lei ci stava dicendo, ma come lo fa anche l'avvocato Antonio Pinto, che è della Confconsumatori di Bari, che è con noi questa mattina, il tema è anche capire, fra tutte queste migliaia di risparmiatori che hanno in portafoglio queste azioni, con che modalità hanno sottoscritto questo investimento? Perché un conto è fare un'azione in una piena consapevolezza e oggi paghi un po' le conseguenze di un investimento sbagliato, altre volte aver fatto una sottoscrizione di azioni di una banca non quotata, dietro contestuale erogazione di un mutuo o di un prestito, o magari dietro anche a una modifica della tua profilatura di rischio, e qui allora entrano in ballo altri ragionamenti. Avvocato, dove l'ho interrotta prima, la lascio concludere il suo ragionamento. Sì, stavamo appunto dicendo cosa è necessario che la banca dica nel momento in cui propone titoli liquidi, proprio per arrivare a quella condizione di consapevolezza che stavate accennando anche voi, nel senso che un prodotto illiquido può essere una scelta consapevole di un investitore, e di fronte ad una scelta consapevole non possiamo dire nulla, ognuno dei propri soldi fa quello che ritiene più opportuno. Noi interveniamo nel momento in cui questa consapevolezza non è stata creata, e quindi i risparmiatori, rispetto ad un investimento che ritenevano facilmente smobilizzabile, si sono trovati invece un prodotto che ha cristallizzato il loro denaro. E soprattutto quando abbiamo di fronte persone che hanno necessità di questo denaro, perché magari è tutto il loro risparmio, allora è necessario trovare delle alternative anche veloci per far sì che questi possano riottenere il denaro di cui hanno bisogno e che magari negli anni hanno risparmiato con tanta fatica. Quindi per tornare al discorso della profilatura del cliente, l'esame della documentazione permette di capire se effettivamente ci troviamo di fronte ad una persona da tutelare, che merita tutela perché non era consapevole, e allo stesso tempo, vedendo i documenti, è possibile verificare nel prospetto informativo, nella nota di sintesi, nella scheda prodotto che la banca doveva rilasciare al momento della sottoposizione dell'investimento, se era stato ben esplicitato il tipo di prodotto che si stava proponendo all'investitore. Questo perché qualora mancassero questi presupposti, il risparmiatore potrebbe dire: tu banca non mi hai correttamente informato di quello che stavo facendo, volevo una cosa, me ne hai venduto un'altra, chiedo la risoluzione per inadempimento del contratto. E questo può essere il motivo, diciamo, principale di impugnazione di questi investimenti. Poi ce ne sono tanti altri che magari possono emergere da un esame attento della documentazione. Certo. Secondo lei la strada della conciliazione in questi casi è percorribile? Andare a chiedere alla banca se vuole transare magari... Devo dire che l'esempio di Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, scoraggia, nel senso che leggiamo appunto che ogni tanto forniscono questi comunicati soprattutto per così sedare un po' le associazioni dei consumatori, prospettando ipotesi di conciliazioni di tavoli abbastanza immediate. Infatti. In realtà, insomma, da quasi un anno che se ne parla e ancora non si è visto nulla. Io ritengo che sia più opportuno e più tutelante per il risparmiatore procedere facendo un reclamo dettagliato, perché in queste vicende ciò che fa diventare vincente una posizione è quella di andare a ritagliare sul singolo investitore il reclamo, far emergere tutto quello che riguarda la posizione specifica della persona. Non sono queste cause adatte ad azioni collettive, perché purtroppo nelle azioni collettive si perderebbe un dato importantissimo, che è il profilo del cliente, e proprio per dimostrare che non c'è congruità tra il prodotto e il cliente bisogna raccontare la storia della persona, che tipo di investitore fosse. Se si fanno azioni collettive questo dato si perde, e quindi si ha sicuramente un argomento in meno per poter ottenere un buon risultato. Chiarissima. Avvocato Pinto, torno da lei, che segue da vicino la situazione appunto pugliese. Allora, in merito a quella segnalazione che ci è arrivata da parte di un ascoltatore che ci ha detto: guardate che io mi trovo nella stessa situazione, nella stessa condizione, ho sottoscritto azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. È una situazione ulteriore che dobbiamo aggiungere a quella che stiamo raccontando questa mattina? Ne ha conoscenza? Sì, contestualmente stanno arrivando anche vari azionisti della Popolare di Puglia e Basilicata che lamentano lo stesso problema. Lì purtroppo c'è un fattore ancora più grave, perché siccome la Popolare di Puglia e Basilicata invece non dovrà trasformarsi in SPA, perché non ha un numero di attivi sufficiente. Lì c'è il rischio più concreto di una stagnazione, perché mentre rispetto alla Popolare di Bari noi auspichiamo che a seguito della trasformazione in SPA la banca diventi contendibile. Se diventa contendibile significa che potrebbero arrivare degli investitori anche istituzionali evidentemente interessati quindi a comprare le azioni e quindi a smuovere un attimo il mercato, che è totalmente in stallo. Ecco, anche per questo, se lei me lo consente, io ruberei un minuto per raccontare l'esperienza che stiamo vivendo del comitato che abbiamo costituito. Al quale si può tra l'altro aderire se ci sono dei risparmiatori all'ascolto, no, avvocato, che volessero ingrandire le fila della vostra della vostra appunto azione. Posso segnalare appunto che possono scrivere, guardi, ce l'ho qui sotto, comitato azionisti bpb@gmail.com. Poi dopo. E il senso del comitato è quello che, accanto alle azioni giudiziali, che sicuramente si andranno a fare anche sulla base di quello che diceva in precedenza l'avvocato Vescovini, però c'è fortissima l'esigenza invece di creare un laboratorio che provi a fare qualcosa di nuovo rispetto al passato. Per questo motivo abbiamo unito qui tutte le associazioni dei consumatori principali, insomma, che ci sono a Bari. Abbiamo costituito un unico comitato per la tutela degli azionisti della Banca Popolare di Bari, che ha il fine di lavorare anche in parallelo rispetto alle cause con azioni invece di carattere di pressing come dire, politico, non in senso ovviamente tradizionale. Faccio solo alcuni esempi. Costituire un gruppo numeroso significa potersi coordinare e contare di più anche nelle assemblee. Perché adesso è chiaro che all'interno la cosa che emerge chiaramente è che c'è la necessità che piccoli azionisti rispetto riescano a farsi valere anche nella governance. Quindi non c'è l'obiettivo di andare ad un'azione collettiva nella modalità in cui temeva l'avvocato Vescovini, che poi dice fa disperdere anche il valore del singolo individuo, il valore della sua perdita, no? Il tema è essere veramente più forti. Invece allora, per esempio, alcune unirsi per dare la possibilità di chiedere alcune azioni che da soli non si potrebbero fare. Faccio un esempio: la richiesta di ispezioni al tribunale per verificare ad esempio alcuni aspetti rispetto al tema delle azioni, la possibilità di convocazioni o di porre degli assemblee, ma soprattutto di porre dei punti all'ordine del giorno. In genere gli azionisti sono anche correntisti, quindi devono capire che hanno un peso che poi prescinde, se uniti però, che poi prescinde dalla singola posizione personale. E quindi un altro esempio molto concreto. Noi siamo le molto chiedo curiosi. Un po' di sintesi, avvocato, perché devo chiudere questa parte, grazie. Perfetto, allora no, chiudo solo dicendo questo. Noi siamo in attesa, chiaro che siamo in attesa della convocazione dell'Assemblea per la trasformazione, perché in quell'occasione la banca dovrà obbligatoriamente comunicare a tutti gli azionisti il prezzo di recesso, cioè il prezzo a cui verrà fissato il nuovo valore dell'azione. È chiaro che in base a quello ci saranno da parte del comitato risposte differenti. Perché si rischia che si vada anche ulteriormente al di sotto di questi 7,50 euro? Vedremo, è chiaro che non lo sappiamo. Quindi, però sicuramente una delle azioni che prevediamo di fare è che noi riteniamo che dove la banca dovesse avvalersi della facoltà incredibilmente concessa dal decreto legge del gennaio 2015 alla banca di bloccare, di impedire l'esercizio del diritto di recesso, una delle azioni unite che si possono fare è proprio quello di far accertare l'incostituzionalità di questo divieto di recedere, che è veramente dalla storia dei tempi del diritto è la prima volta che una legge italiana si permette di dire che un azionista di una società che viene trasformata da cooperativa, da popolare in società per azioni non può recedere così su una mera decisione del consiglio d'amministrazione. E questo è solo un esempio concreto di quello che vogliamo fare. Allora, c'è ancora una strada lunga e tortuosa, mi pare di capire, da percorrere. Voi teneteci informati su tutte le novità che emergeranno prossimamente su questi casi. Noi saremo qua pronte con Nicoletta a ridarvi la parola e il microfono. Intanto io ringrazio molto l'avvocato Antonio Pinto e Letizia Vescovini per essere state con noi, ma a microfoni spenti quello che io e Nicoletta ci dicevamo è che quello che crediamo veramente, che intanto queste cose qua non devono essere vendute alle persone che non ne hanno consapevolezza. Ho voluto fare questa conclusione, Nicoletta, perché so che da qui ripartirai. Proprio così, consapevolezza, possiamo dire che sia la parola chiave della trasmissione di oggi, perché di consapevolezza parla anche la storia da cui abbiamo preso spunto per il tema della parte di cuore. Una storia molto chiacchierata e cliccata, d'altronde ci sono tutti gli ingredienti, a cominciare dal protagonista, un grande sportivo, il tennista numero uno al mondo, un ragazzo bello, ricco e famoso, ma al momento in crisi della serie Non basta avere tutto per essere felici, che per superare questo momento di difficoltà sembra abbia deciso di affidarsi a un guru. Questo spagnolo, che si chiama Pepe Imaz, è un ex tennista numero 146, mi segnala Laura Vanossi, che sai che sa tutto di sport. Nel maggio del 1998, 42 anni, rimasto nell'ambiente come guida spirituale. In rete questo video, che è stato postato dallo stesso Pepe, in cui Djokovic insieme al fratello Mirko meditano, ha avuto naturalmente migliaia di visualizzazioni. Sembra poi che Nole abbia smentito la notizia, o meglio ridimensionato il ruolo del guru, spiegando che in realtà fa solo parte del suo staff. Probabilmente il tennista si è un po' infastidito dalla risonanza della notizia che ha invaso la sua privacy. In ogni caso, in tempi non sospetti, in occasione della pubblicazione del suo libro Il punto vincente, in un'intervista si era espresso così, proprio a proposito della meditazione. Gli psicologi la chiamano mindfulness, consapevolezze. È una forma di meditazione secondo cui, invece di tentare di mettere a tacere i pensieri, li accogliamo così come si presentano alla mente. Faccio questi esercizi ogni giorno per un quarto d'ora e li considero altrettanto importanti dell'allenamento fisico. Poi pratico lo yoga per sciogliere i muscoli e alcuni esercizi di respirazione. Cerco di ascoltare me stesso attraverso la pace e il silenzio per essere sereno e felice. E voi quali strade utilizzate per essere o cercare di essere sereni e felici? Chi vi siete rivolti? Dove avete cercato conforto, aiuto per superare magari una crisi, un momento di difficoltà? E com'è andata? Scriveteci al 349-238-6666, chiamateci all'800-24-0024. In linea abbiamo il dottor Paolo Amami, neuropsicologo del Neurocenter di Humanitas, con cui vogliamo commentare, come anticipati, i risultati di una ricerca molto interessante che dimostra che la meditazione, in modo particolare la mindfulness, lascia traccia nel cervello, cambia il suo modo di funzionare, rendendolo praticamente in grado di gestire meglio le situazioni di stress. Ma andiamo per ordine. Intanto buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Debora. Allora, dottore, mindfulness, la traduzione letterale del termine inglese è consapevolezza. Ma che cos'è questo tipo di meditazione? Ma è un tipo di meditazione che si è sviluppata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti, appunto, grazie al lavoro di un medico, in realtà di un biologo molecolare di nome Kabat-Zinn, che aveva seguito appunto un corso di meditazione buddista e ha pensato di introdurre alcuni concetti proprio della meditazione buddista all'interno di un contesto più occidentale e più medico, quindi come tecnica per aumentare il benessere e ridurre lo stress fondamentalmente. Dottore, per avere anche un'idea ancora più chiara della mindfulness, potrebbe essere utile sapere che cosa non è. Allora, siamo andati sul sito dell'Associazione Italiana per la Mindfulness e abbiamo letto: non è una tecnica di rilassamento, non è un modo per entrare in qualche forma di trance, né per svuotare la mente e raggiungere il vuoto, non è una modalità per garantirsi un facile benessere psicofisico, che non esiste, non è una sorta di spa emozionale, non è una forma di buonismo che ci spinge ad accettare tutto, ad accogliere acriticamente quello che ci accade, ad essere passivi nel nome dell'accettazione. Dottore, che cosa ne dice? Ma direi che le definizioni sono corrette. Una definizione unica di mindfulness diciamo che non c'è ancora, anche perché poi col passare del tempo si sono creati vari protocolli, quindi vari modi di fare la mindfulness, quindi applicati anche a cose molto diverse tra loro, come patologie cliniche, psicologiche, ma anche riduzione dello stress lavoro, certo, correlato, quindi situazioni non prettamente cliniche. Diciamo che il punto centrale è proprio la consapevolezza. La definizione diciamo più diffusa si fonda su tre perni principali, che sono appunto quelli suggeriti da Kabat-Zinn. La mindfulness consiste quindi in un processo attentivo, quindi nel rivolgere l'attenzione in maniera intenzionale ai propri processi di pensiero, facendo riferimento unicamente al qui e ora, quindi al momento presente, e in una maniera non valutativa e non giudicante. Queste, ecco, questo diciamo, mi piace, il non giudicante mi piace parecchio. Ma torniamo alla ricerca, che è stata svolta su piccoli numeri, 35 partecipanti in realtà, però ha prodotto dei risultati interessanti. Che cosa hanno dimostrato i ricercatori, di cui poi parleremo, altri ricercatori che stanno lavorando per trovare soluzioni per il cancro? Dottore. Allora, hanno sostanzialmente preso 35 persone con alti livelli di stress, questi erano soggetti disoccupati in cerca di lavoro. Sì, non hanno fatto grande fatica ad arruolare 35 persone, direi che di materia di studio ce n'è. E disponibili, giusto, poverini. Appunto hanno scelto poveri, quelli, esatto, infatti, per assicurarsi persone con alto livello di stress. Li hanno divisi casualmente in due gruppi e li hanno fatti partecipare a un gruppo a 3 giorni di training mindfulness e l'altra metà dei soggetti a 3 giorni di un training di rilassamento, quindi gli soggetti erano ovviamente inconsapevoli di quello della, che sta, sì, quale, della tecnica, quale gruppo appartenessero, esattamente, quindi da un punto di vista esteriore le due tecniche erano assolutamente simili. La differenza tra le due tecniche era appunto gli esercizi mindfulness nel primo gruppo. Per sintetizzare, hanno scoperto che entrambi i tipi di training avevano effetti positivi sullo stress. Quindi aiuta. Meditare aiuta in generale, è una cosa che fa bene. La cosa interessante è che solo la mindfulness però aveva effetti a livello cerebrale, nel senso di modificare la forza e l'efficacia con cui alcune zone del cervello comunicano tra loro. Per essere un pochino più precisi, le zone del cervello che avevano iniziato a comunicare più efficacemente tra loro dopo il training mindfulness erano le zone del cervello dedicate alla elaborazione delle emozioni, degli affetti, eccetera, e un'area del cervello che è quella, l'area più anteriore del cervello, che è un'area un pochino più gestionale, quindi regola le altre funzioni cerebrali, distribuisce l'attenzione e oltretutto hanno scoperto che proprio questa nuova relazione, questa relazione più efficace tra queste aree era il motivo principale per cui una certa proteina, che è l'interleuchina 6, andava ad abbassarsi a 4 mesi di distanza nel gruppo mindfulness. Questo tipo di proteina è associata all'infiammazione, ma anche associata a stati di stress. E diciamo che è un biomarcatore generale del benessere fisico e mentale. Quindi risultati molto molto positivi. Molto positivi, quindi la meditazione in generale fa bene. Noi stiamo parlando dei risultati di una ricerca sulla mindfulness. Naturalmente la ricerca si è occupata anche di altre tecniche di meditazione. Noi oggi ci occupiamo di questa. Ma dottore, questo spiega in parte anche il motivo per cui la mindfulness è stata assimilata, direi, all'interno del bagaglio di tecniche della psicoterapia cognitiva. Anche lei la utilizza, ma per che tipo di pazienti e soprattutto per quali tipi di sintomi è indicato questo tipo di tecnica, di percorso, e su che processi mentali va ad agire? Allora, diciamo che è una tecnica abbastanza trasversale che viene adottata da molti tipi di psicoterapia. Sicuramente la terapia cognitiva è quella che sì, la utilizza è quella di che più. L'ha assimilata prima. Sono nati vari protocolli per diverse patologie, quindi per esempio le ricadute depressive, le ricadute nelle tossicodipendenze, il disturbo d'ansia generalizzato, i disturbi d'ansia in generale. Diciamo che, essendo molto sintetico, lavorando sulla consapevolezza, prima di tutto aumenta appunto la consapevolezza del soggetto rispetto ai propri processi di pensiero. Questa potrebbe sembrare una cosa banale, ma tanto banale perché la mente di solito ci è un po' opaca, ma soprattutto nelle interazioni sociali, negli stati emotivi, eccetera. Facendo questo evita alcuni processi appunto di pensiero disfunzionali, come può essere per esempio il rimuginio nell'ansia, e un'altra cosa molto importante, aiuta ad evitare l'evitamento esperienziale, nel senso che alcune persone, quando hanno paura, cercano di non trovarsi più in quella condizione per paura di avere paura, per cui la evitano, tanto per ripetere pensieri ed emozioni, certo. Insomma, il grado di consapevolezza di cosa ci succede in testa. Allora, tra poco sentiremo Mattia da Vicenza che ci racconterà la sua esperienza, ma prima, intanto, dottore, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Dobbiamo andare a sentire i mercati. Prendiamo consapevolezza di che cosa fanno. Dai. Questa bella esperienza di borsa oggi vi faccio fare, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Eccoci qua, veloci, siamo tornati insieme. Consapevolezza, la parola chiave di oggi. Abbiamo parlato di mindfulness, che è la meditazione della consapevolezza, che è quella indubbiamente più studiata, ma non è la sola. Quando si parla di meditazione si fa riferimento, tra l'altro, a tante pratiche diverse, a volte così diverse che sembrano essere quasi in contrasto. Alcune, ad esempio, dicono che è importante scacciare i pensieri, e invece altre dicono no, tienili vicini. Alcuni dicono che è importante concentrarsi su un mantra, altre che bisogna creare il vuoto, che fare, quale scegliere, come possiamo orientarci. E noi abbiamo chiesto aiuto ad un amico di Cuore Denari, Daniele Belloni, insegnante di yoga dello spazio Shanti di Milano. Ciao Daniele. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Daniele, le domande che vogliamo fare a te è cosa fare, come scegliere, dove informarsi, ma prima sentiamo il suggerimento di Mattia che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Mattia, benvenuto e grazie. Pronti? Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi sentite? Sì. Buongiorno. Sì. Buongiorno a tutti, sono qui e ora, come si suol dire. Eccolo. grazie mille intanto per la possibilità, perché non c'è molto spazio per parlare di questa tecnica normalmente. Magari molti non la conoscono, ma io posso portare la mia esperienza iperpositiva, nel senso che io sono un manager, faccio attività in giro per l'Italia, per cui un livello di stress abbastanza alto, e sono arrivato un paio di anni fa ad approcciarmi alla mindfulness dopo vari attacchi di panico, episodi di ansia, di stress molto acuti. E devo dire inizialmente con abbastanza scetticismo. Ma in realtà è fantastica, nel senso che quando riesci a capire che puoi essere stanco, che puoi essere triste, che lo accetti, veramente vedi le cose che ti succedono anche non positive di tutta la vita con un, diciamo, un faro diverso puntato. Possiamo dire, Alberto Pellai direbbe, con un altro paio di occhiali, però perché rende bene. Intanto io ho ricordato, c'è un sito, l'Associazione Italiana per la Mindfulness, dove potete anche andare a trovare un elenco di istruttori, perché se volete così affidarvi ad un istruttore. Grazie Mattia. Devo dire, Mattia, che insieme a te tanti ascoltatori ci si stanno mettendo in contatto con noi, alcuni per raccontarci la loro esperienza, altri per chiederci, sì va bene, ma allora che si fa? Daniele, questo adesso è arrivato il tuo momento, cosa fare, come scegliere, dove informarsi? Sì Nicoletta, ma io prima di tutto vorrei fare una premessa per risponderti, devo fare una breve premessa che in parte spiega le differenze di cui parli tu, ci sono tante scuole, tante possibilità eccetera. Bene, la meditazione come tecnica di introspezione a sfondo spirituale e religioso ha una storia antichissima alle spalle. Alcuni testi tradizionali della sapienza indiana che parlano di meditazione yoga, ad esempio, risalgono al VI secolo prima di Cristo. E se potessimo, con la macchina del tempo, recarci nell'India di allora e scattare una fotografia, un giovane uomo seduto in meditazione sotto un fico sacro da 49 giorni, 49 notti, bene, avremmo un'istantanea dell'illuminazione del Buddha. Mentre se fossimo in grado di raggiungere la Grecia nello stesso periodo e osservare il Tempio di Apollo a Delfi, potremmo leggere sull'architrave del portale d'ingresso la famosa massima «Conosci te stesso». Segno che il processo di autoconoscenza che associamo alle pratiche meditative era un dato centrale della ricerca spirituale anche allora. Probabilmente, Nicoletta, l'uomo ha iniziato a porsi domande su se stesso dai tempi delle caverne e ancora continua a porsele nell'era dei grattacieli. È vero, Daniele. Allora, con la macchina del tempo noi siamo tornati a oggi. Qual è la situazione della meditazione oggi? È quella che descrivevi tu all'inizio. Tante scuole, tanti metodi diversi, quindi un'estrema ricchezza di conoscenza alla portata di tutti, dalla meditazione yoga alla meditazione zen, dalla meditazione buddista di ambito tibetano, la vipassana, solo per citarne alcune. Si tratta di metodi di meditazione che possono presentare diversità sostanziali e tuttavia puntano tutti allo sviluppo della consapevolezza. Le diverse tecniche meditative si adattano poi alle diverse personalità, agli scopi che si desidera raggiungere, come nel caso della mindfulness adattata a terapia in ambito medico di cui avete parlato prima. Ma se la meditazione è una scelta impostata alla conoscenza di se stessi, alla comprensione profonda della domanda fondamentale che identifica l'uomo come cammino su questa terra da sempre, e cioè chi sono io? Bene, allora la prima cosa da fare è trovare un buon insegnante. Direi che la qualità dell'insegnante è fondamentale e persino supera ogni considerazione rispetto alle differenze di metodo. Quindi Daniele, l'insegnante è cruciale, ma dove lo troviamo un buon insegnante? Come facciamo a riconoscerlo? Lo riconosciamo in molti modi, ma in prima istanza ci si può rivolgere alle scuole di yoga che propongono la meditazione tra le proprie attività, sì, ai centri di meditazione zen, di meditazione buddista, di tradizione tibetana. Internet, lo sappiamo, sì, tutti, trabocca di informazioni di ogni genere. Mi rendo conto che orientarsi non è semplice, ma è possibile. Tenendo presente con chiarezza però cosa si desidera dalla meditazione. La meditazione può essere sia una scelta di benessere psicofisico, sia un cammino di ricerca interiore, ma spesso le due cose vanno assieme. Del resto Buddha è stato definito come un medico, un grande medico, che rivolgendosi all'umanità malata stabilisce attraverso le quattro nobili verità la natura della malattia, vale a dire la sofferenza, e quindi la causa della malattia, la terapia e i farmaci da assumere per uscire dalla malattia. Daniele, grazie per la chiarezza. Intanto i nostri ascoltatori ti stanno apprezzando mandandoci dei commenti positivi e favorevoli, ma se volessimo dare qualche indicazione di meditazione per problemi più specifici, ad esempio una persona stressata, il nostro ascoltatore prima raccontava, sono un manager, sono molto stressato e lui ha scelto la mindfulness. Sì. Quale tecnica di meditazione consiglieresti tu? Io sono un insegnante di yoga, quindi partirei dallo yoga. Capisco che ci sono tante tecniche possibili, sono tutte valide. Per quanto riguarda la mia esperienza specifica dei miei studi nella meditazione, ti direi partirei dal corpo, consigliando a quella persona una buona seduta di postura yoga per sbloccare le tensioni a livello fisico. Sì. Poi introdurrei la tecnica fondamentale di respirazione diaframmatica, vale a dire inspirando si espande delicatamente l'area fra ombelico e base della cassa toracica, l'area dello stomaco grosso modo, sì. Espirando si contrae delicatamente la medesima area, ombelico, base della cassa toracica. Vietata la respirazione toracica. Quella alta, quella che usiamo. Assolutamente, ecco. Da sconsigliare, vietatissima. E respirando in modo diaframmatico, Nicoletta, si accede già a uno stato mentale meditativo. E invece, Daniele, a una persona che volesse provare a stare nel qui e ora? Consiglierei la tecnica di osservazione del respiro come passaggio da respiro a respiro e dello scorrere del tempo da momento a momento. Cioè, divenire consapevoli di ogni singolo momento senza rimanere connessi al momento precedente e senza saltare al momento successivo, questo momento. E a quella persona chiederei anche che cosa manca al momento presente, a questo momento. E che cosa manca? A guardare bene, Nicoletta, non manca nulla. Allora, Daniele, noi potremmo passare alla pratica. So che hai pensato una tecnica di meditazione per i nostri ascoltatori, ma abbiamo le informazioni sul traffico. Io chiederò a Laura Vanossi di registrare la tua tecnica di meditazione che mettiamo naturalmente nella nostra pagina. Fai una sorta di posologia, libretto illustrativo. Poi i nostri ascoltatori che sono interessati vanno sulle pagine di Cuore Denari e troveranno questa tecnica di meditazione suggerita da Daniele Belloni, una meditazione tascabile, direi. Sì, diciamo che è tascabile, prêt-à-porter, nel senso che dura pochi minuti ma è estremamente efficace. E posologia, consiglio di ripeterla più volte al giorno, appena svegli al mattino, la sera prima di addormentarsi, prima di colazione, prima dei pasti, in ogni momento in cui si sente il bisogno di ritrovare il centro di noi stessi. Dura poco meno di 3 minuti, quindi ci prende il tempo necessario, sufficiente per dire ecco, ci sono, come diceva Mattia, nel qui e ora, pronto per affrontare tutti i temi della giornata, tutti i problemi e risolverli brillantemente. Grazie a Daniele Belloni che aspettiamo qui con noi per un'altra puntata, un altro approfondimento. Intanto lo potete ascoltare tra poco, tempo appunto di registrare la meditazione, un portateco. Grazie Daniele, un abbraccio e noi andiamo un saluto a tutti a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi continuiamo a parlare di ricerca. C'è la maratona dell'AIRC, ci sono delle novità interessanti che vogliamo raccontarvi con l'aiuto dei nostri ricercatori. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e Denari. Eccoci tornati insieme, dopo la meditazione parliamo di ricerca, torna infatti come ogni anno la maratona dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che promuove il suo tradizionale appuntamento per informare il pubblico sui progressi della ricerca oncologica e raccogliere anche nuove risorse da destinare al lavoro dei ricercatori. In linea con noi, e noi ne siamo felici, è tornato a trovarci Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, salve, grazie. Allora, immunità, prevenzione, microambiente e medicina di precisione. Queste sono le quattro sfide in cui AIRC con i suoi ricercatori è impegnata. Ci aiuta a capirne di più, le passiamo in rassegna insieme? Partiamo dall'immunità e prevenzione, professore. Ma prima di tutto mi lasci dire che è importante che ognuno di noi, per quelle che sono le proprie possibilità, le proprie disponibilità, supporti l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, perché ha fatto moltissimo negli ultimi decenni e continua a farlo. Detto questo... Perché la ricerca è di chi la fa, ma anche di chi la sostiene. La ricerca è di tutti, ecco. E senza la ricerca non si va da nessuna parte, non c'è alcuna possibilità di migliorare tutto ciò che noi abbiamo a disposizione in qualunque campo e in particolare quindi nell'ambito del trattamento del cancro. Siamo a cuore denari e direi che è un investimento di lunghissimo termine, ma molto remunerativo. Assolutamente sì, assolutamente sì. La prevenzione, come diceva lei, resta ovviamente l'arma principale che noi abbiamo per sconfiggere il cancro. Prevenirlo è chiaramente un aspetto fondamentale, possiamo farlo tutti noi con la vita di tutti i giorni, tutti noi sappiamo che fumare fa male e quindi che è assolutamente importante non iniziare per le persone giovani e smettere per coloro che fumano. Ma vorrei anche riprendere un tema che in questi giorni ha avuto molta risonanza, anche il Presidente della Repubblica che nella giornata iniziale di questa settimana lo ha ricordato, cioè le vaccinazioni. Le vaccinazioni sono cruciali non solo per prevenire le malattie infettive, molte delle malattie infettive che ormai abbiamo sconfitto da anni, ma possono essere fondamentali anche per sconfiggere e prevenire l'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Penso ad esempio al tumore del fegato, penso al tumore del tratto genitale nelle donne, quindi la vaccinazione contro gli agenti virali che sono responsabili di queste patologie può aiutarci nel lunghissimo tempo a impedire che vi sia l'insorgenza di un tumore in queste aree del nostro organismo. Abbiamo parlato proprio della vaccinazione contro il papillomavirus nella puntata dedicata alla salute maschile, abbiamo parlato anche infatti di HPV nell'uomo. Quindi professore? Quindi questo è l'aspetto fondamentale, la prevenzione. Quando non siamo riusciti, non siamo stati efficaci prevenire l'insorgenza del cancro, sappiamo che di avere a disposizione però delle armi sempre più raffinate, sempre più efficaci e, come diceva lei, sicuramente l'immunoterapia, quindi l'utilizzo di farmaci che attivano il sistema immunitario del paziente ad essere in grado di tenere sotto controllo la progressione della malattia sta facendo passi da gigante. In questo ancora una volta l'AIRC si è sempre impegnata negli ultimi anni nel fornire di supporto a gruppi italiani che hanno dato un contributo fondamentale a questo aspetto e i risultati si vedono. Parlavamo prima di un investimento a lunghissimo termine, è vero che i tempi della ricerca sono purtroppo lunghi, ma è altrettanto vero che stiamo ottenendo dei risultati sempre più importanti avendo a disposizione dei farmaci che in grado di attivare il nostro sistema immunitario ci stanno dando dei risultati estremamente importanti in alcuni tumori per i quali fino a pochissimo tempo fa non avevamo praticamente nulla a disposizione, ne abbiamo parlato, il melanoma cutaneo, del tutto recentemente alcuni tipi di cancro del polmone e la ricerca non si sta fermando perché vi sono praticamente pur se nell'ambito di sperimentazioni cliniche e quindi studi che riescono a valutare limitati numeri di pazienti con caratteristiche molto precise, abbiamo praticamente a disposizione nuovi farmaci immunoterapici per qualunque tipo di tumore. Professore, dopo immunità e prevenzione ci sono altre due parole che ci stanno particolarmente a cuore e soprattutto a cuore dei ricercatori e dell'AIRC: microambiente e medicina di precisione. Queste sono indubbiamente le due frontiere ulteriori sulle quali ci stiamo confrontando. Stiamo comprendendo sempre di più, grazie a studi preclinici, a studi condotti nei modelli animali, ma anche nell'uomo, che il microambiente, quindi le condizioni che esistono e che sussistono all'interno del tumore, sono cruciali per la migliore efficacia, ad esempio ancora una volta, dell'immunoterapia. Noi sappiamo che all'interno, che il tumore tende a difendersi dall'esterno e quindi tende a difendersi dal nostro sistema immunitario, e vi sono, si stanno comprendendo sempre di più quali sono questi meccanismi che facilitano l'escape, come si dice tecnicamente, quindi il mancato controllo della crescita tumorale, ad esempio da parte del sistema immunitario. Anche su questo vi sono in questo momento, anche in Italia, attive sperimentazioni verso ad esempio alcuni enzimi che sono prodotti dalle cellule tumorali e che sono in grado di bloccare la funzionalità del sistema immunitario all'interno del tumore. Noi abbiamo e stiamo sperimentando in diversi tipi di tumore alcuni farmaci che, bloccando l'attività di questi enzimi, permettono ancora una volta che al sistema immunitario di essere sperabilmente più efficace nel tenere sotto controllo la malattia entrando fisicamente all'interno del tumore e permettendo quindi la distruzione delle cellule tumorali stesse. E questo sicuramente un ambiente di ricerca di frontiera. È fondamentale quindi garantire proprio questa continuità al lavoro dei ricercatori, e proprio per questo io vi ricordo che sabato 5 novembre, quindi domani, i volontari AIRC saranno in oltre 700 piazze per distribuire i cioccolatini della ricerca. Deborah, siamo pronti? Mancheremo. No. Insomma, c'è una donazione minima di 10 euro, quindi riceverete un'elegante confezione con 200 grammi di cioccolato fondente, che il professor Maio, sappiamo, è considerato uno dei cibi protettivi contro i tumori, perché è ricco di flavonoidi, anche con proprietà antiossidanti, quindi non è stato scelto a caso. Assolutamente, senza esagerare, ma una donazione di aiuto, e poi si possono sempre offrire anche degli amici. Si condividono, i cioccolatini si condividono. Assolutamente. Allora, abbiamo messo poi dei link nella pagina di Cuore Denari, ci sono anche degli insert sulle parole della ricerca, ritroviamo alcuni degli amici di Cuore Denari, Aldo, Giovanni e Giacomo. Davvero? Sì, Giacomo spiega la cellula, poi c'è Carla Signoris che parla di chemioterapia, insomma un programma ricco che ha coinvolto anche personaggi noti dello spettacolo. Professore, grazie per la chiarezza, per il vostro impegno. Quando noi sentiamo raccontare i successi della ricerca ci sembrano semplici, ma ci sono ore e ore e ore e ore di studio, anni, di tentativi, anni che accumulati fanno veramente un monte. Grazie, esatto. E anche per grazie questo i ricercatori e il loro lavoro va sostenuto. Grazie professore, grazie, buona festa. Eccoci qua, inizia intanto anche il nostro weekend, Nicoletta. Sì. Pronta Vedo a preparare tante cose belle per la prossima settimana. Andiamo a comprare i cioccolatini, devolviamo appunto a favore della ricerca. E noi torniamo lunedì. Salutiamo anche Marco Lombardo, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella, che non abbiamo mai il tempo di farlo. Oggi che ce l'abbiamo, li salutiamo. Grazie, ragazzi, grazie di tutto. Cioccolatini anche per voi. A lunedì.